Prima edizione. L'informazione del mattino. Le 6, 15 minuti e 35 secondi. Sono state 5 le scosse di terremoto che si sono registrate nella notte nelle zone terremotate dell'Emilia, secondo i rilievi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il più forte è stato a mezzanotte e 2 minuti, magnitudo 3.2 ed epicentro tra le province di Modena e Mantova. Gli altri hanno avuto magnitudo comprese tra i 2 e i 2.4 gradi della scala Richter. Questa la notizia, adesso c'è la viabilità, sentiamo cosa succede su strade e autostrade, ci ritroviamo subito dopo per un punto sulle prime pagine dei quotidiani. Prima edizione. Le 6, 17 minuti e 45 secondi, veniamo alle prime pagine dei quotidiani. Insomma, in una giornata come oggi naturalmente non si poteva partire diversamente che con la Gazzetta dello Sport, che è abbastanza indulgente con la nostra nazionale e nella sua apertura di prima pagina. Avanti tutta, Cassano e Ballotelli, col punto esclamativo, l'Italia vola ai quarti. Doveva essere la nazionale di Fantantonio e Super Mario, eccola, unico guaio, l'infortunio di Chiellini. Editoriale del direttore in prima pagina, con merito e con cuore, anche se poi, a dire il vero, se si va alle pagine interne, la pagella per la nostra nazionale vanta un 6,5 appena, un 6 a Prandelli e un 6,5 per il migliore Cassano. Questo il quadro della prima pagina della Gazzetta dello Sport e questa è la lettura che ne dà la Gazzetta dello Sport. E ovviamente la cosa la trovate in prima praticamente su tutti i quotidiani, il Corriere della Sera addirittura ci apre ed è l'Italia di Cassano e Balotelli soffre, vince e va avanti, battuta l'Irlanda dei Trapattoni per 2-0, i timori di un accordo tra Spagna e Croazia si sono rivelati infondati. Il commento di Mario Sconcerti, che già alla fine tutto nel titolo, una squadra imperfetta ma in crescita. La Repubblica lo mette con foto e quasi tutti, attenzione, scelgono la foto del gol di Mario Balotelli o insomma un'immagine relativa a Mario Balotelli, segno che era evidentemente l'uomo che si aspettava. Gli azzurri soffrono, poi volano ai quarti, gol di Cassano e capolavoro di Balotelli, è il titolo della Repubblica. Italia ai quarti, Balotelli scaccia la paura, è il titolo invece della Stampa, che mette la bellissima immagine del dopo gol di Balotelli quando Bonucci gli chiude la bocca perché stava dicendo cose che, come dire, che non doveva dire. Sceglie invece una foto di Cassano e il Messaggero, il gol di Cassano e Balotelli spingono gli azzurri ai quarti. Infine, sempre sul tema della nazionale e non solo su quello, il giornale, l'Italia resta nell'euro, calcio batte economia, Cassano e Balotelli meglio di Monti, 2-0 all'Irlanda. Infine, scusate perché ho detto infine con il giornale, infine Libero, che mette due palloni diciamo sotto una gonna di Angela Merkel, una specie di caricatura, dateci la Merkel, l'Italia passa il turno agli europei, Europa può sperare di arrivare fino in fondo e battersi con i tedeschi, la stessa cosa che dovrebbe fare Monti. Dunque si traggono lezioni per il Presidente del Consiglio dalla vittoria di ieri della nazionale. Veniamo dunque all'altro grande tema, che è ovviamente il tema europeo, che viene richiamato anche in questi due titoli del giornale e di Libero, a partire direi dal Sole 24 Ore, tassi spagnoli record, spread in rialzo, Monti serve l'unione politica, Atene chiede tempo sui tagli, ma Merkel dice niente sconti, così il Sole 24 Ore, mentre scelgono un maggiore riferimento alle elezioni greche e gli altri quotidiani, poi ci arriveremo. La crescita di Berlino può curare l'Europa, è il commento in prima pagina di Mario Sarcinelli. Altri due commenti su di Adriana Cerretelli, che dice la vera diga è l'unione bancaria, un altro di Alessandro Merli che dice l'America non salga in cattedra. C'è un titolo anche dedicato al G20, lo sviluppo è la priorità assoluta, banche da sostenere, e un pezzo di Maximiliano Ancellino molto utile per fare il punto su quello che succederà nei prossimi giorni. Le 3 settimane che cambiano l'Unione, quali sono le date chiave per i mercati? C'è un racconto sull'Italia che ce la fa, che a firma di Mariano Maugeri, l'Italia che batte la crisi, l'inchiesta sull'Italia che batte la crisi, parla dei primati tedeschi di Parma, dall'alimentare alla meccanica, qui l'industria continua a crescere. E c'è da segnalare che tra le notizie di cronaca che il Sole 24 Ore decide di tenere in prima pagina c'è anche il Tribunale di Sorveglianza che revoca il regime del 41 bis al vostro IA, ne abbiamo parlato poco fa, condannato per la strage di Capaci. Sulla Nazionale, sul Sole 24 Ore, c'è il commento del nostro Gigi Garanzini. Il Corriere della Sera, la Grecia non calma i mercati, più o meno i titoli sono un po' su quella linea, almeno una parte dei titoli sono su questa linea qua, borse giù, Monti al G20, la crisi non nasce in Europa, un pezzo, un commento di Francesco Daveri, economista, rigore crescita, Berlino e le risposte che non potrà dare, e l'editoriale di prima pagina invece a firma di Federico Fubini, le terapie dei paesi a rischio, chi investe e non vede, questo il titolo. Che cos'altro troviamo in prima pagina sul Corriere e anche sugli altri quotidiani? Innanzitutto l'Egitto, vicenda della quale abbiamo parlato ieri e della quale insomma già vi abbiamo raccontato con l'inviato del Sole 24 Ore al Cairo, Ugo Tramballi, che a dire il vero già dal mattino presto ci prefigurava questo scenario. Perché l'islamico Morsi è presidente, ossia il candidato dei Fratelli Islamici, ma in Egitto comanda l'esercito, perché la giunta militare si è di fatto attribuita tutti i poteri. Si trova anche un commento di Massimo Franco dedicato alle parole di ieri di Tarcisio Bertone, del cardinale segretario di Stato, tra l'altro ampiamente al centro della cosiddetta vicenda Vati Leaks. Dice Massimo Franco, per dare un'idea, le parole del segretario di Stato Tarcisio Bertone al settimanale Famiglia Cristiana sono sorprendenti nella loro durezza, ma vanno soprattutto comprese, riflettono la condizione psicologica di un primo ministro vaticano segnato dagli scandali che hanno sfiorato lui e alcune persone che gli sono vicine. Molto duro è stato il cardinal Bertone, come si diceva, lo tiene in prima pagina il Messaggero, che anzi ci fa il titolo di taglio centrale del quotidiano. Il segretario di Stato dice i giornalisti imitano Dan Brown, Bertone, vogliono dividere il Papa dai suoi cardinali. Bertone che dice a proposito della pubblicazione di lettere inviate al Papa da persone che avevano diritto alla privacy, intravede un vulnus all'articolo 15 della Costituzione. Visto che siamo sul Messaggero, rimaniamoci, sul tema europeo, il titolo è più o meno lo stesso, borse giù, il voto greco non basta, l'Europa, il freno tedesco, a firma di Marco Fortis, l'editoriale di prima pagina, un racconto dallo Scabos a proposito del G20, un titolo sulla Nazionale, come ovvio, come si diceva in questo caso la foto scelta non è di Balotelli, o meglio c'è una foto di Balotelli in un tondino al centro, ma c'è soprattutto la foto di Cassano che esulta. Sempre a centropagina troviamo un altro titolo interessante, perché a Napoli l'assessore PM lascia la giunta De Magistris. L'assessore alla legalità del comune di Napoli, Pino Narducci, si è dimesso. Ha inviato una lettera nella quale vengono evidenziati i motivi della scelta. Narducci si è dimesso al termine di un anno cominciato tra le polemiche su toga e politica, con l'associazione magistrati del CSM contrari alla sua discesa in campo, e finito con una serie di dissidi con lo stesso De Magistris, racconta il Messaggero. Altra storia bella naturalmente, intendiamoci, insomma, un bel racconto di cronaca è quello che riguarda la vigilessa, figlia di un generale a giudizio per il duplice omicidio, la figlia del generale e il trafficante di droga, lei Sonia Pisani, di mestiere vigile urbano, figlia del fondatore del ROS dei Carabinieri, lui un plurip giudicato per reati di droga, ieri oltre a essere amanti, da ieri sono alla sbarra insieme per un duplice omicidio a Cecchina di parecchi mesi fa. Così il Messaggero. Veniamo alla Repubblica. Euro, il voto greco non basta, ancora il titolo. A centropagina invece si sceglie la vicenda della RAI. Sono Tobagi e Colombo nel consiglio di amministrazione della RAI. Sono i candidati delle associazioni al consiglio di amministrazione della RAI. Il segretario del PD Bersani dice: siamo orgogliosi di sostenerli, ma slitta il voto in vigilanza. Spunta l'ipotesi di Santoro alla 7. Questo il quadro per quanto riguarda la Repubblica. Anche qua naturalmente titolo su Balotelli, sulla Nazionale, e la notazione da parte di Gianni Mura che resta molto da fare. La Stampa sceglie invece come titolo Stati Uniti e BRICS, pressing sull'Europa. I BRICS sono Brasile, Russia, India e Cina, che insomma sono i cosiddetti paesi, sono i cosiddetti paesi emergenti, anche se in realtà ormai sono ben emersi. Un commento di Enzo Bettiza in prima pagina, il passaggio obbligato dell'Unione, e riporta in prima pagina La Stampa una cosa che in realtà portano pochi, questa curiosa posizione del sottosegretario all'economia Polillo. La ricetta di Polillo: meno ferie, solo così potrà risalire il PIL. Lavoro, PD, nel frattempo sul lavoro, PD e PDL in pressing per modificare il testo. Sul caso Esodati il dossier è sul tavolo del Premier. Tra l'altro oggi il ministro Fornero dovrebbe riferire in Parlamento sulla questione. E in prima pagina ci sono le pressioni di Mancino su Grasso nella trattativa Stato-mafia. Mancino avrebbe fatto pressioni su Grasso, ma il procuratore smentisce. Questo quello che trovate sulla Stampa, mentre il Fatto, sempre sulla stessa vicenda, parla di pressioni del Colle. Il consigliere di Napolitano suggerisce all'ex ministro Mancino di intervenire sul procuratore Grasso. Domani gli parlo. Poi il Quirinale scrive una lettera al procuratore generale della Cassazione. L'ha voluta lui per sentirsi più forte, che subito dopo convoca il capo della Procura Nazionale. Le telefonate, un intreccio di interferenze nell'inchiesta di Palermo. Questa è addirittura l'apertura del Fatto Quotidiano, di Libero e del Giornale. Insomma, vi abbiamo già detto. Titoli su paragoni tra Europa, l'Italia in Europa, insomma, questa vittoria dell'Italia in Europa, agli europei, e il ruolo dell'Italia in Europa dal punto di vista politico ed economico. Dunque, chiudiamo la rassegna stampa e ci ritroviamo tra un attimo con le notizie in breve. Prima edizione. Sono le 6:37, il momento d'Italia in controluce. Italia in controluce. Buongiorno, buona mattina, l'Italia in diretta, l'Italia che si sveglia, vi parla Daniele Biacchessi.

è un po' come se i pompieri dovessero litigare per chi mette l'acqua prima, chi la mette dopo, chi ha diritto a una pompa e chi ha diritto all'altra pompa. Insomma, direi che dimostra che al ponte di comando non c'è una visione coerente e soprattutto non c'è una presa di coscienza dell'urgenza con cui si devono affrontare i problemi che permangono, come dicevi poco fa, nonostante il buon risultato politico in Grecia. I mercati lo hanno dimostrato chiaramente quando stamattina, quindi quando poche ore, diciamo una decina d'ore fa, in un comunicato i BRIC dicevano che certo avrebbero dato i loro contributi perché questo non era mai in dubbio eccetera, ma che non volevano comunicare gli ammontari, non avrebbero comunque consentito che i loro contributi potessero essere utilizzati se non quando fossero stati esauriti gli altri, insomma una serie di condizioni e di puntualizzazioni che hanno dimostrato e confermato che insomma c'è un litigio continuo in questo caso tra paesi sviluppati e paesi emergenti. Ricordiamolo, i BRIC sono il Brasile, la Russia, l'India, la Cina, ma insieme a loro ci sono numerosi altri paesi, per esempio la Malesia, per esempio la Nuova Zelanda, le Filippine, quindi lo stesso Messico che ospita questo incontro del G20. Dunque c'è una situazione, c'era una situazione che non prometteva, diciamo, non prometteva bene. Invece Mario, l'accordo è arrivato alla fine e l'accordo è arrivato dal punto di vista dei contributi monetari, per cui invece dei 430 miliardi che ci si aspettava, però ricordiamo che dovevano essere 600 miliardi, quindi c'era già stato un forte passo indietro durante le riunioni di primavera del Fondo Monetario Internazionale, ne arrivano 456, dunque 26 miliardi di euro in più, la Cina ha fatto la parte del leone con un contributo di 43 miliardi di dollari, però le indiscrezioni dicevano che avrebbe cercato di fare un match, cioè di pareggiare il contributo del Giappone che invece era stato di 60 miliardi di euro, e gli altri paesi hanno dato 10, i grandi fra gli altri paesi, cioè il Brasile, la Russia e poi anche il Messico, hanno dato 10 miliardi di euro ciascuno, contributi minori dalla Malesia, dalle Filippine, eccetera, eccetera. Ecco, a questo punto la cifra è specificata e dunque questo è sicuramente un elemento positivo, resta la puntualizzazione che questi fondi nuovi, questi fondi diciamo approvati oggi, definiti oggi, potranno essere utilizzati soltanto quando gli altri 380 miliardi di euro già garantiti durante gli incontri di primavera si saranno esauriti. Ecco, direi che resta comunque una piccola nota di amarezza, ma di fatto formalmente abbiamo tutti gli elementi per definire il firewall, quindi 456 miliardi di euro da parte del Fondo Monetario, in dotazione al Fondo Monetario Internazionale, ci sono 500 miliardi di euro su cui potrà fare leva, o meglio 80 miliardi su cui potrà fare leva, fino a 500 miliardi l'IMSF, European Stabilization Mechanism, e ci sono altri 250 miliardi di euro circa del IFSF, e quindi arriviamo a circa 1100 miliardi di euro di disponibilità. Vedremo se queste cifre basteranno ai mercati. Grazie Mario Platero. La viabilità. Prima edizione. E siamo a parlare di nazionale, lo facciamo con il nostro Dario Ricci. Buongiorno Dario, una prima valutazione su come è andata con l'Italia. Sì, buongiorno Simone. Siamo reduci da questa nottata esaltante di emozione, di paura anche, poi alla fine di gioia, che ci ha portato ai quarti di finale. Un'Italia tutt'altro che perfetta, quella che abbiamo visto contro l'Irlanda, che per buona parte della partita ha sofferto la grinta dei poco più che volenterosi irlandesi di Trapattoni, senza trovare il gioco, ma che poi quantomeno è riuscita a strappare questa qualificazione insperata grazie agli acuti dei suoi due giocatori più attesi, no? Cassano e Balotelli, che in modo diverso sono stati protagonisti della partita e soprattutto del tabellino finale. Senti Dario, come si dice appunto, Cassano e Balotelli appunto i protagonisti, poi tra l'altro insomma che cosa possiamo dire su loro due insomma? Cassano finora è stato protagonista di buone prestazioni, soprattutto fin quando lo reggono le gambe. Diciamo che nella prima ora di gioco è stato tra i migliori degli azzurri. Quando questo minutaggio si è esteso, sono venuti fuori i limiti di una preparazione fisica condizionata da guai che ben conosciamo. E lo stesso Cassano, lo ricordiamo nella sua conferenza stampa, poi è diventata famigerata, direi, per tutt'altri temi, aveva detto di avere nelle gambe poco più di un'ora. Per quanto riguarda Balotelli, abbiamo visto il meglio e il peggio, direi, di Super Mario. Un gol straordinario, una girata che appena l'ho vista mi è venuto in mente il miglior Vialli, un gol veramente eccezionale. E poi quella rabbia, quell'incapacità di sorridere, anche in una situazione che comprendiamo sicuramente di grande tensione per Super Mario. Ma ci regalasse una volta un sorriso dopo un gol, davvero sarebbe la sua rete più bella. Grazie, grazie dunque a Dario Ricci. Noi dobbiamo veramente chiudere. Un ringraziamento a Peter Bescapè in regia, Diego Rovelli in redazione. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia, ci risentiamo tra poco con il giornale radio.